Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavara. Siamo molto contenti, abbiamo aspettato, ma Padova è riuscita ad andare in A1 e siamo felicissimi. Buonasera ai Riafiora, la band che stasera, nonostante tutto, suonerà qualcosa con delle chitarre così prese a prestito, però è importante che ci siete. Buonasera Riafiora. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio, si vede da Cittadella fino a qua, non avete tanto... Beh, ha sbagliato strada. Paolo, capitare. Questa volta guidava Paolo. Ma ha accompagnato a casa, non ha mica sbagliato la strada, accompagnatemi a casa qualche minuto fa. Avevo un buon navigatore. Esattamente. Bene, Riafiora, è importante sottolineare una cosa, avete fatto un disco molto interessante, molto importante e molto coraggioso, la Marsigliese, un concept album. Una band che all'inizio, praticamente un disco di esordio, fa un concept album, ci vuole molto coraggio, secondo me. Com'è il discorso? Matteo, partiamo da in linea così. Sì, sicuramente tu, dunque, mi fa anche molto piacere che tu abbia colto questo fatto del concept album. In realtà comunque non è che c'è stato più di tanto un progetto iniziale, è venuto spontaneamente una cosa di questo genere. Le tematiche sono la cosa, diciamo, che più rappresentativa di questo album, che si parla comunque di storie, di racconti, di vari personaggi, principalmente di secondo piano, poniamo così. Ho capito. Che, un po' delle figure di dei perdenti, però non dico, beh, c'è molto l'aspetto anche dei perdenti, diciamo, più che un perdente, comunque adesso mi viene a dire l'eroe hemingwayano. Ok, ho capito, sì. Che comunque ci prova per tutta la vita, persegue un ideale e non necessariamente vince, anzi tutta diciamo spesso non riesce nel suo intento. Ho capito. Però diciamo lui ha questo romanticismo di fondo nel continuare sempre a perseguire quel proprio ideale. Siete arrivati alla Marsigliese, ma prima voi siete venuti qua qualche anno fa, però gli ascoltatori che si sono collegati adesso mica tutti ricordano il vostro excursus sonoro. Matteo Marenduzzo, Paolo Trolles e Andrea D'Amato, l'altro è in Francia, sta arrivando, Alessio Montagna, lo salutiamo in Francia. Per mezzanotte forse arriverà qua. Matteo, una veloce escursus sulle cose precedenti, sì, vostre. E dunque, dopo un primo EP autoprodotto come d'inverno, questo nel 2005, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Danilo Tommasetta dell'Anno Pop, un'etichetta di Bologna, che purtroppo è morta anche con noi, non abbiamo portato fortuna. E quindi abbiamo inciso il nostro primo EP ufficiale, French Kiss, e lì abbiamo avuto anche delle soddisfazioni, soprattutto con il videoclip di French Kiss, che è andato in rotazione su il Music, su Rock TV, e abbiamo vinto il premio come miglior videoclip indipendente. Sì, tra l'altro anche in home page su YouTube. No? Ah sì, esattamente. Quindi ha avuto un notevole riscontro. Soprattutto sul web, anche comunque un po' sulla TV. Sì. Abbiamo vinto il premio come miglior videoclip indipendente al MEI del 2009, questo insomma ancora festeggiamo, tra l'altro. Sì, è un riconoscimento che tenete sempre in pacheca. Esattamente, anche perché c'era, mi ricordo quell'anno, Caparezza, Fame di Camilla, che dovevano ancora comunque far Sanremo. Capossella. Esattamente. E dopo l'anno scorso, per la Dischi Sove Studio, questa splendida etichetta con sede a Cittadella. Un'etichetta con sede a Cittadella, è importante. Esattamente, certo. E abbiamo fatto un progetto un po' particolare, Antonio P, un racconto collettivo, tre brani, un racconto collettivo, diciamo, scritto a più mani, un videoclip anche, e delle tavole di un nostro amico, carissimo amico, che tra l'altro ha fatto un super lavoro, secondo me, per quanto riguarda i disegni di accompagnamento, illustrazioni. Tra l'altro particolare, anche vorrei aggiungere, citiamo tuo amico, come si chiama? Igor Verdozzi. Sì. Perfetto. Ecco, particolare anche musicalmente, volevo aggiungere, perché comunque contiene un brano strumentale di pianoforte, questo violini. È P praticamente, questo è Antonio P. Esatto. Quindi un brano strumentale, un brano recitato, certo, preso dalle ultime lettere di Jaco Portis e rivisitato, e Antonio P vero e proprio, per cui anche all'interno proprio del disco le musiche sono, abbiamo voluto creare un po' una cosa particolare. Sì, ha scosso parecchia gente questo EP, eh? Sì, perché comunque abbiamo dato modo di partecipare alla progettazione di questo lavoro, perché abbiamo scritto questo racconto collettivo in cui ognuno scriveva a proposito di Antonio P senza magari conoscerlo personalmente o direttamente, per cui abbiamo sì sicuramente coinvolto più persone. Beh, poi volevo anche salutare e ringraziare Francesco Cerchiaro e Mario Pigozzo Favaro, che hanno partecipato appunto alla stesura del racconto, che sono nostri cari amici. Insomma. Benissimo, sì, questo racconto ha provocato, come abbiamo detto, uno scossone positivo in parecchia gente, non solo negli additi di lavori, anche oltre, e poi lentamente l'idea di arrivare a questa concept album, la Marsigliese, che tra l'altro è un bel disegno. Chi l'ha fatto il disegno? Il disegno, l'opera, di... mamma mia, un attimo solo, perché è Alessio che si interessa della... Perché adesso è montagna, in montagna, pardon, si chiama montagna, in Francia. Comunque, ecco, è Patrizia Bertoli. Ah, ok, Patrizia Bertoli. Adesso mi sono ricordato fortunatamente. Bene. Facciamo una cosa come sempre, apriamo la finestra, ringraziamo Michele Tosoni in regia che guiderà tutto quanto la trasmissione fino alle 24 ed oltre, che là è presente, sei presente. Okay. Dipendiamo da lui, no? Per cui. Assolutamente, e cominciamo con il pezzo che abbiamo scelto da disco. Ti ricordi che traccia era? Numero 9, la traccia numero 9. La traccia numero 9. Il singolo che abbiamo proposto, che è Lunatico proposto, che è Andrei. Beh, lo sentiamo e poi parliamo un momento, ok? La con me questo valzer stasera. Shava di Buddha. E poi un passo a due, un inchino affinato negli anni. Shava di Buddha. Perdoni la mia imprudenza, ma il suo décolleté non passa inosservato. Se volesse condurmi ora in questa mazurka sfrenata, Andrei, il cocchiere sulla neve dell'inverno di San Pietroburgo, attende il padrone. Che elevata cultura, sciaverura. Di certo sa la tecnica, che movimenti armoniosi. Una carrozza in attesa, se volesse condurci ora negli appartamenti privati, Andrei, il cocchiere sulla neve dell'inverno di San Pietroburgo, attende il padrone finanziere. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo parlato allora, mentre il pezzo andava microfono spento, di questo singolo Andrei. Dobbiamo citare una cosa molto importante: chi ha guidato l'ispirazione vostra? Lo citiamo, questo personaggio straordinario che vi ha dato una mano dall'inizio della pre-produzione fino alla stesura totale del disco. Vai. Roland Chris Murphy. E chi è? Beh, dillo tu, che prima lo dicevi con un certo... È un produttore di grande importanza, ha collaborato con i King Crimson, signori, dobbiamo levarci tutti in piedi, Robert Fripp, un genio assoluto, ha collaborato con Tony Levy, uno dei più grandi musicisti viventi. Come avete, come siete riusciti a scovare un produttore di questo calibro? Beh, in realtà l'ha scovato Alessio, a onor del vero. Perché lui a cena fuori, tra l'altro, no, a ma cena, andare a cena fuori, no, per sì, per questo in come, seguito come l'ha scovato lui praticamente Alessio ascoltava Alessio, il tastierista della band, sì, chiaramente, sì, che è in Francia, sta arrivando dalla Francia, esatto, sì, per chi si fosse sintonizzato ora, no, non ricordiamo, praticamente Alessio stava ascoltando un gruppo islandese e Soundspell, esatto. Ah, Soundspell, sì, e dei quali si era invaghito, diciamo, e innamorato. A lui, no? Piacevano molto questi Soundspell e erano appunto prodotti da Roone e Chris Murphy, il loro ultimo disco. Tra l'altro questo è una band che appena fatto appena uscito il disco, diciamo, si è sciolta. Ah, perfetto. Quindi non era nemmeno uscito diciamo, ma così fisicamente, non poteva essere venuto di fuori del sì. Ma come l'ha sentito Alessio? Come l'ha sentito questo disco? Ah, ma lui penso su MySpace, su MySpace girando. E allora voleva appunto chiedere alla band di mandare, mandare il CD, esatto, per avere proprio la copia fisica in mano, da buon feticista del CD. Mi pare giusto, i CD sono importanti anche averli materialmente, chiaramente. Giusto, sì. E praticamente il gruppo non ha mai risposto, allora lui si è rivolto al produttore, certo, questo Roone, Chris Murphy, il quale gli ha risposto prontamente e di lì a poco sarebbe venuto in Italia. E allora lei si è detto: ok, non spedirmi niente, vediamoci in Italia. Roone veniva qui per tenere dei corsi come ingegnere del suono sulle tecniche di registrazione qui vicino, proprio in Veneto. Benissimo. E allora è stato la Galeotta fu, sì, esatto. E quindi da questo discorso avete... Pian piano, diciamo, dopo un anno e mezzo siamo arrivati anche a fare... L'abbiamo avvicinato ai brani nostri, facendosi ascoltare qualcosa, eccetera. Lui si è interessato, abbiamo pensato di fare una pre-produzione inizialmente con lui. Dopo lui si è affezionato più di quanto noi avremmo previsto e insomma caldeggiava anche l'idea di registrare lui il disco, perché aveva delle idee e voleva sviluppare queste cose. Infatti ne parleremo magari dopo. Sì. Non è... Soprattutto nel primo pezzo ci sentono le sue idee, no? Sì, sì, sicuramente, ecco, noi avevamo una versione un po' diversa, lì abbiamo lavorato in fase di preproduzione. Sì, ma una cosa che mi avete detto mentre il microfono era spento, che va lasciato, cioè non ha fatto determinate barriere, determinati paletti, va lasciato. Sì. Esatto, beh, certo, se posso dire io, lui è, anzi esaltato un po' quelle che le nostre caratteristiche peculiari, e limato magari dove qualche ingenuità, sì, cioè, con la sua esperienza, genere, è logico. Esatto. E ha limato anche il batterista, no? Com'è? Ha limato anche la tua forza alla batteria oppure no? Mi ha limato. Ah, ti ha limato. Vabbè. Mi ha migliorato. Ecco, diciamo, ti ha migliorato, non limato è una brutta cosa. Sì, no, ti ha migliorato. Diciamo che ci ha permesso di creare una coesione migliore rispetto a quella che magari avevamo prima, dovuta un po' anche all'inesperienza. Certo, lui è fondamentale. Ci ha dato dei consigli veramente fondamentali, appunto, per far sì che il disco suonasse al meglio, diciamo. Certo. Perché secondo lui diceva che spesso e volentieri non c'erano gli strumenti molto coesi tra di loro, in questa maniera allora ci ha dato dei consigli su cosa puntare. E allora dopo le preproduzioni abbiamo avuto un bel lasso di tempo per provare, diciamo, per far sì che noi da soli ci potessimo sistemare secondo migliorare, i suoi consigli, eccetera. Esatto. Ok, ho capito. Ecco, tra l'altro ti stavo dicendo anche prima che la produzione di questo disco non è venuta soltanto in studio di registrazione, ma la cosa particolare che forse mi ha anche emozionato di più è che abbiamo scelto anche delle location particolari, sì. Esatto. Infatti poi nel disco è anche scritto dove abbiamo registrato alcune cose, per dire in breve in teatro a Cittadella, nella chiesa di Fontaniva, dove abbiamo utilizzato anche un organo bellissimo, sì, un suono meraviglioso, esatto, in piazza San Marco, dove io ho cantato anche dei brani e suonato Matteo con la chitarra in alcune piazzette, campielli, eccetera, per cui è stato anche emozionante da quel punto di vista. Rischio anche di secchiate di urina, perché esatto. Era tardi, tra l'altro, la notte. Urina se ci va bene, tra ok, andiamo avanti allora velocemente, perché abbiamo poco tempo stasera, però il tempo deve essere sfruttato nel migliore dei modi, chitarre e voce. Un altro pezzo da disco abbiamo scelto, un'altra traccia, ti ricordi che traccia era, Michele? La numero uno. È l'inverno a Padova. Che bellissima, traccia bellissima, qui c'è la mano buona, non pesante, del produttore che ha dato un suo tocco. Cos'è? E una piccola curiosità, diciamo che la voce è stata registrata in piazza San Marco. Ah, bella, bella. Di con un riverbero naturale appunto della piazza. Ottimo, una cosa meravigliosa. Ok. Veste di profumi incorreggibili, si muove sempre a piedi e disegna i suoi giorni grigi e neri. Abituata al sapore delle lacrime, niente rimane, uguale. Sapore sono l'ombra che mi insegue silenziosa e indiscreta quanto scema. Ogni giorno mi scoloro fino a quando in un momento mi abbandono. Thank you. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, un pezzo molto particolare. È un pezzo, poi il bello della particolarità del pezzo è che è il brano numero uno, mi pare. Sì. Quindi già una cosa molto azzardata, sì. Coraggiosa, sì, azzardata. Pezzo, una location straordinaria. Sì. Venezia praticamente. Venezia, e devo dire che... Ma Venezia non perché sia Venezia, Venezia come Veneto, come territorio Veneto. Insomma. Sì, infatti abbiamo cercato di conferire al lavoro anche un profumo di casa, no? Di familiarità, per cui sono tutti bene o male posti in cui noi abbiamo avuto delle esperienze, dei contatti, delle cose. Beh, e proprio ti interrompo, sì, un attimo. Era un'esatta idea anche di Runan, quella di far suonare lo spirito, tra virgolette, del Veneto, insomma, renderlo parte del disco. Tra l'altro lui innamorato del Veneto, in particolare, e quindi penso che sia stata una bella esperienza anche per lui, insomma. Cioè si è sentito benissimo, insomma, musicalmente, si è sentito tutto suo praticamente, dobbiamo dire che il pezzo era un pochino più veloce, no? Leggermente, sì, era leggermente più, diverso. Leggermente, sì, diverso, lui l'ha un po', non dico frenato, l'ha un po' rallentato. L'ha dilatato, l'ha sicuramente, dilatato, ecco, esatto. E quindi insomma è stato apprezzato, ci fa molto piacere che questo sia arrivato. Molto apprezzato. Proprio lento, cadenzato in certi momenti, quasi ipnotico in certi momenti. Ci ha messo le mani, ma una mano che non è restrittiva nei vostri confronti, ha allargato determinate idee. Che ma essenzialmente era quello che volevamo anche noi, che lui potesse dare il suo apporto anche a livello proprio di orecchio, di ascolto, di cuore, come quello che gli arrivava. Credo che comunque quando si accetta di lavorare con una persona... Poi in tal caso un produttore artistico, certo, ci si rimette anche alle sue... Il produttore artistico è fondamentale, voi siete in quattro, però l'esperienza sua chiaramente è un'esperienza importante, quindi vi ha dato una mano per sviluppare anche le idee vostre. Esattamente. Trovo, sì, che adesso non abbiamo questo disco, l'abbiamo fatto con lui, non ho altri riferimenti, però credo che abbia dato la chiave di lettura che, per quanto mi riguarda almeno, era... trovo assolutamente perfetta, cioè ora ascolto, dico, il disco può piacere o non piacere, ma a me personalmente piace moltissimo, è proprio quello, la direzione in cui volevo andare. Ecco, certo. forse l'unica, un po' quella cosa che ci ha esposto a qualche rischio, a qualche critica, a mio parere, è che il disco è eterogeneo, come dicevi tu, è una specie di concept album abbastanza, per cui forse non può avere al primo ascolto, o comunque superficialmente, un filo comune, nonostante ci siano storie, sì, sì, di capito, questi eroi romantici, certo, eccetera. Però forse abbiamo voluto anche puntare su uno spaccato, abbiamo voluto rappresentare una cosa che era da tempo in cantiere. Certo, esatto, sì. Mi poi penso anche di capire che tu voglia dire che ci sono anche molte sfaccettature diverse, sì, sì, sì, musicalmente. Esattamente. Sì, esattamente. Però questo siamo in realtà anche un po' noi, cioè... sia da Antonio Pia e Presidente Francis, sì, ci piace un po' variare anche per non stufarci, insomma, di quello che facciamo, quindi fa parte delle nostre caratteristiche sicuramente. Chiaramente, sì. Allora, non tutti l'apprezzano, ma insomma, beh, non si può piacere a tutti. Ma è stato apprezzato, cioè, le critiche che ho letto io sono state positive, no, insomma. Fortunatamente, sì. Quindi noi apprezziamo ancora meglio quando suonate, adesso abbiamo deciso con due chitarre trovate, però... Sì, allora facciamo anche una premessa, io arrivo da uno stato di convalescenza. Io ti ringrazio che sei venuto lo stesso nonostante la malattia, sei riuscito a superare la malattia stasera. Oddio, forse supererà lei me stasera, perché sentite che voce ho. Però, insomma, abbiamo due chitarre acustiche. Due chitarre direttamente dalla casa di Maurizio Cazzolana. Questo è un altro paio di maniche, due chitarre acustiche per provare a fare qualcosa. Ok. Quindi visto che non ci prendiamo poi troppo sul serio... Proponiamo lo stesso brano in una versione acustica che si chiama anche L'inverno a Cittadella. Giusto per essere ancora più. Sì, ok. Paolino. 1, 2, 3, 4. Che mi inquina, che si veste di profumi incorreggibili, si muove sempre a piedi e disegna i suoi giorni grigi e neri ammirandoti negli occhi, colleziono i tuoi sguardi più castani. Bocca sempre accesa, abituata al sapore delle lacrime. Niente rimane. Uguale. Uguale. A tratti rosso e blu. Il sapore. Sono l'ombra che mi insegue, silenziosa e indiscreta quanto scema. Ogni giorno mi scoloro, fino a quando in un momento mi abbandono. E niente rimane. Uguale, uguale. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, Andrea, io non ti voglio augurare nessuna malattia, ma se la malattia ti porta questa voce qua, sono ben soddisfatto. Beh, superato Dio. Ampiamente. Dobbiamo sottolineare i jeans di Paolo che ti fanno un'ottima batteria. I jeans di Paolo danno un certo suono. Sentirete dopo con cioè, gli altri è il pacco di Paolo, forse. Una cosa improvvisata ci sta tutta. È giusto che sia così. La musica si fa anche così, improvvisando. Beh, pezzo riveduto e corretto da voi. Chiaramente siamo in dimensione assolutamente acustica stasera, però lì il tocco vostro si sentiva. Chiaramente il pezzo era vostro, non c'era il produttore, c'erano solo due chitarre acustiche e ha tanta voglia di suonare. È un paio di jeans. È un paio di jeans. Fanno della melt, non si può fare neanche pubblicità, immagino. Beh, era un paio di jeans. I nomi, i marchi degli jeans li conosciamo. Con qualche foro. Beh, non importa, anche quello porta rumore. Anche il foro. Ok, questo era l'inverno a Padova rivisitato. Sì. O Cittadella, la stessa cosa. Beh, l'inverno a Padova è il titolo originale. L'inverno a Padova registrato a Venezia. La battuta che abbiamo fatto, che hai fatto prima, mi sembra uno spento, ma. Registrato a Venezia, però insomma Venezia è comunque il territorio, è nostro anche lì, territorio nostro, assolutamente. Quindi la Marsigliese è il nuovo disco nuovo che avete fatto, il vero e proprio disco nuovo, perché prima erano tutti EP praticamente. Sì. Disco ufficiale, anche perché abbiamo adesso ultimamente si entra nel mercato in maniera discografico, che poi fa un po' ridere. Sì, forse sì, no, un po' scomparso. Comunque, un po' scomparso, sì. Diciamo che abbiamo avuto delle cartoline di presentazione che potevano essere questi EP, che erano un po' degli assaggi, come dire, per attirare un po' l'attenzione. Esistiamo anche noi per dare poi, non so se magari atteso o inatteso, però io me la sono fatta così, me la sono anche mangiata. E adesso vi diamo in pasto anche qualcosa di più. Prima Paolo citava del produttore che ha utilizzato, non facciamo la pubblicità, però ha utilizzato determinati sistemi, determinati macchinari, e poi con determinati video ha evidenziato questi sistemi che ha utilizzato. Sì, no, infatti, perché lui praticamente, al di là di quello che è l'aspetto puramente musicale, voleva appunto ricreare dei fantasmi, no? Tipo quelli che circondano un po' Venezia, quelli che passano attraverso le calli, quello che c'è attorno alla piazza, registrare le voci delle persone che attraversano, quindi registrare i suoni, il parlato, così come sottofondo. Appunto lui utilizzava degli strumenti particolari e durante, diciamo, tutto il percorso di registrazione dell'album avevamo due ragazzi, due nostri amici, che praticamente ci seguivano per fare dei servizi fotografici e anche delle riprese video. Così facendo, appunto, Ronan, il nostro produttore, poteva avere anche del materiale grafico e fotografico e anche video per, diciamo, pubblicizzare quello che è il suo operato, insomma, per far vedere delle determinate tecniche di registrazione, magari fuori dal comune. Ah, questo, quindi si è fatto praticamente pubblicità e lavorando ha fatto il suo lavoro. Ah beh, certo, certo, certo. Figura. E tra l'altro anche una cosa che volevo aggiungere, sempre a proposito di Ronan, sembra che gli stiamo un po' leccando il culo, ma no, vabbè. No, diciamo una cosa un reale. Ronan se lo merita. Esatto. E che c'è stata un'affinità, secondo me, molto, molto forte. Io parlo anche personalmente, quando abbiamo composto Antonio P, eccetera, sì, abbiamo voluto dare al lavoro, che comunque constava di 3 brani, anche questo video, queste tavole, queste illustrazioni, questo racconto. Per cui cercare di coinvolgere più sensi proprio possibile. Che è un po' l'idea che è mia di arte, insomma, che più sensi vengono coinvolti in un'opera, anche un quadro, se ti evoca un odore, un suono, qualcosa, vuol dire che sta funzionando. Lo stesso durante la registrazione, il fatto di prendere dei colori, degli odori, delle piazze, delle cose, eccetera, ha aiutato un po' questo tipo di, sì, di attitudine, di sì, lavoro. Cioè, di lavoro praticamente, aiutato a capire meglio il percorso. Sì, sarà che io, o comunque adesso anche con il documentario che sì, c'è, e la gente sa, beh, questa è stata registrata a Venezia, è stata cantata a Venezia, allora magari si immagina la piazza, si immagina i piccioni o l'acqua, l'odore. Beh, si immagina anche questo personaggio che urla in Piazza San Marco alla fine, no? Esatto. Sicuramente poi è stato, a parte che volevo anche ringraziare Massimo Toniato, esatto, e Luigi Pietro Scantamburgo, appunto, che sono i due ragazzi che ci hanno seguito durante tutte le fasi e fotografo di registrazione. E beh, sicuramente da quanto abbiamo visto, insomma, anche mettendo in internet questo filmato, si è creata un po' di aspettativa, sì, curiosità. E chiaramente l'obiettivo, anche questa è sempre un'idea che ha proposto Luna, era quella di coinvolgere maggiormente gli spettatori, gli amici, piuttosto che comunque tutte le persone che potevano imbattersi in questo, ai fini di apprezzare meglio, entrare più dentro, diciamo così, l'anima del disco. Certamente. Anche perché adesso obiettivamente internet è l'unico mezzo di comunicazione, esatto, che ci permette perlomeno di farci conoscere senza utilizzare i network, quelli classici, diciamo, certo, la TV, certo, la radio, eccetera. E quindi appunto con questo documentario, con questo video, abbiamo appunto la possibilità di far vedere quello che c'è stato dietro, certo, alla produzione vera, certamente, e propria. Ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che vi ha voluto qua stasera, chiaramente. Grazie mille. E salutiamo delle ascoltatrici, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci ascoltano sempre, fanno parte... Il zoccolo duro, esattamente. Sentiamo un altro pezzo da disco e poi faremo, secondo me, se siete d'accordo, 2 live consecutivi. Va benissimo. Sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia è, Michele? La numero 6, ok. La numero 6 è Lo Schianto. E dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo, perché è interessante, interessante. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con i Ria Fiora, che stasera stanno presentando il loro nuovo album, La Marsigliese, e ci presentano anche dei pezzi chiaramente dal vivo. Abbiamo sentito questo brano un po' particolare. Particolare perché? Innanzitutto ripetiamo il titolo. Si chiama Lo Schianto. Lo Schianto. E c'è una piccola frase dedicata a chi dentro Lo Schianto? A Glenn Frey. E chi è Glenn Frey? Glenn Frey è il grandissimo chitarrista, fondatore, co-leader, facciamo, leader, fondatore, sì, degli Eagles. Degli Eagles. Quindi come mai gli Eagles con i Ria Fiora, appunto, di domanda? Ma in realtà perché quando ho scritto questo brano pensavo a una situazione proprio estiva, molto... californiana. Californiana, esatto, di caldo e... Con una Giulietta però, Sì, ma poi infatti abbiamo mescolato, abbiamo messo anche del nostro... Però un riferimento così musicale, insomma, ecco. Però è particolare, sì, diciamo, in realtà non è poi così particolare, siamo noi, ma che ci romanziamo. Anche sul mucchio comunque scrivevano che aveva un vago sapore di West Coast. Esatto, sì, West Coastiana, sì. E allora forse è arrivato. Poi è particolare perché noi ci ricamiamo sopra le nostre cose, le nostre storie. In realtà è un brano che tratta di due lesbiche che fanno un incidente, hanno un incidente stradale finché praticamente una... una playlist, diciamo, perché esatto. Tipo Thelma e Louise, insomma, un po' la Thelma e Louise, però c'è la Valsugana, però c'è un'omosessualità più, forse più marcata, okay, proprio esplicita. E come mai entra Glenn Frey musicalmente, anche musicalmente, forse qualche momento, non dico alla Eagles, però un momento di un certo tipo di musica americana, sì. Beh, Matteo, allora forse... Ma ti dirò, il brano è stato scritto comunque prima, musicalmente prima di avere il testo di Andrea. Però qualche riferimento appunto a California è venuto, quindi è stato, insomma, forse per caso, ma quindi... cose, tra l'altro io faccio tutte le cose completamente a caso, quindi insomma... Quindi avete tentato di fare un approccio con Glenn Frey? Ma allora è successo che Ronan... Diciamo cosa è successo. Tu sai già allora. No, io ho letto, dovete dirlo voi adesso. Esatto, perché Ronan conosce un po' il... Il tour manager dei Eagles. Esatto, e chi lavora un po' attorno. E appunto ha detto, guardate, c'è una canzone che cita Glenn Frey... E insomma, ecco, l'ascolterà. Appunto, il disco non era ancora finito. Quindi, adesso, tra l'altro, è rientrato in America oggi, Los Angeles oggi. E è la prima volta, diciamo così, non appena lo vedrà, sarà sua premura, diciamo così, fargli avere la Marsigliese. Fare ascoltare questo, cioè, oltre al disco totale, anche questo pezzo che, bene o male, c'è un suo aggancio. Esatto. Ma poi lui conosce un po' tutto il mondo, no? Come dicevamo prima. Musicale, dell'ambiente, degli artisti, tra l'altro in Mon Amour, un brano sempre del disco, ha suonato anche, e non solo, anche in altri brani, ha suonato il percussionista dei... Victor Bisetti dei Los Lobos. Esattamente, grandissima band dei Los Lobos, che tutti ricordano per un pezzo solo, invece ha fatto tante altre cose molto importanti, più dello stesso pezzo della Vampa, praticamente, dire un nome. Sì, Los Lobos, molto bravi, anche molto bravi perché molto diversi, cambiano completamente, sempre ben volentieri. Una band di grandissima importanza, secondo me. Beh, d'altronde sì, un nome sicuramente importante. Ecco. Certamente. Ok, sono le 23:39, adesso abbiamo deciso di fare qualcosa dal vivo. Sì, cosa? Io faccio sempre le solite premesse, io ho la voce sta va peggiorando lo stesso. Di volte in volte. Tra l'altro non abbiamo neanche avuto modo di prepararci molto perché appunto io... Sì, è stata improvvisata, perché non doveva essere solo un'intervista. Poi chiaramente la mia spinta, probabilmente la mia... non so cosa sia successo. Le tue chitarre, tra l'altro, suonano molto bene. Le mie chitarre, quindi ingloriosamente le mie chitarre, io non sono assolutamente capace di suonarle. Però voi le suonate molto meglio di me, sicuramente, quindi per me è un valore aggiunto, quindi è una cosa molto positiva. Cosa suoniamo adesso, allora? Allora io direi che potremmo fare l'imputato. Ok, facciamo l'imputato. Proviamoci. Paolo Jeans, mi raccomando. Sì, pronto con i Jeans? Microfonati. Un attimo che li accordo. Ecco, bravo. Speriamo che abbia bevuto. 1, 2, 3, 4. Pubblico ministero, lasci che racconti la mia storia. Un passato torbido non giustifica certe accuse. Sappia, il mio alibi è inattaccabile. L'omicidio avvenne all'ora in cui mi trovavo in via dell'83. Dell'83. Questo è un errore giudiziario. Sono il vostro capro espiatorio. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ministero, sicuramente come sa, abita lei al numero 6, libertina, con foga e voluta, sua moglie a quell'ora vi cornificò. Questo è un errore giudiziario. Sono il vostro capro espiatorio. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, sì, è giusto, no, dal vivo si accorda anche dal vivo, assolutamente. Ah, siamo in diretta, sì, ma certamente siamo in diretta. Volevo solo dire questo parlava di un errore giudiziario, ho presunto tale. Sì, in realtà un praticamente viene processato e condannato una persona che... Ma dato che l'ha scritto Matteo, io direi che sia meglio se lui... Ah, l'ha scritto a te, che si accorda, sì. Mentre accorda, può parlare mentre accorda. Diciamo che praticamente... questo cosa voleva parlare di un personaggio, un eroe negativo questa volta, uno un perdente, allora uno dei bulli, diciamo così, dei bulli della società, che delinquente, un delinquente, un delinquentello che veniva viene accusato di un reato che per l'unica, una delle poche volte che non ha commesso il fatto, ho capito. E il suo alibi è di ferro, perché lui la sera dell'omicidio di cui si parla nel disco era in compagnia della moglie del pubblico ministero, a cortificare il pubblico ministero. Quindi, perfettamente. Quindi era un... Diciamo così, è stato incolpato solo per il rancore del pubblico, ministero. Questo, questo è l'errore giudiziario. Perché poi i soprusi, no, a volte vengono alle persone, vengono fatti alle persone che magari non se lo meritano. In questo caso abbiamo voluto anche stanare e dare evidenziare queste cose qua. Benissimo. Sì. 23:44, siete pronti ad un altro pezzo? State accordando? Dammi, prego, due minuti. Beh, parliamo un po' di... se avete qualche concerto, un giro da fare. In realtà ne abbiamo parecchi e devo dire anche che io sono dimentico le cose forse più facilmente di Paolo. E quindi, allora possiamo dare Paolo il nostro MySpace, no? Forse hai nominato la persona sbagliata. Io sul cellulare, comunque dovrei ricordarmi, 28 maggio al Giradischi. Allora, 15 maggio. 15 maggio, che sarà la tavernetta Villa del Conde. Esatto. Quindi la prossima settimana, 15 quindi maggio. Domenica prossima, 15 maggio, alla tavernetta Villa del Conde. Bene, 28 maggio attiene al Giradischi. Bene. Sì. 2 giugno Cittadella in centro. Al Duomo, vero? Il centro da Pasinato. Proprio in centro Cittadella. C'è scritto le date, sì, benissimo. No. Ho scritto solo i locali. Ah, diciamo. Perfetto, va bene. E non... poi abbiamo qualsiasi Modena. Ah, no, problema. Ho scritto anche le date. Il 24 di giugno siamo a Sant'Orso, a Vicenza. Sì. Il 15 luglio siamo sempre in città Cittadella. E invece il 22 di luglio siamo a Galliera, alla Spina Festival. Beh, speriamo di avere qualche altra data nel frattempo. Abbiamo Modena e altre cose che forse... Sì, esatto, siamo... Intanto facciamo sul calendario. cioè superiamo anche la regione, praticamente andiamo verso in Emilia Romagna. Sì, è quello che speriamo di fare il più possibile, insomma. Beh, mi pare giusto per poter anche se purtroppo c'è da dire che ci scontriamo con dei cachet veramente poco elevati, per usare un eufemismo. Avevamo anche due date a Foggia, ma a 200 euro è stato abbastanza difficile. Ti faccio un esempio di molti anni fa. Dente, ve lo ricordate? Dente, certo. Ecco, Dente mi citava anni fa che lui ha preso 6 mesi di aspettativa dove lavorava per poter far sentire il suo disco ed è andato in giro per l'Italia e spesso e volentieri veniva pagato con una Coca-Cola e un pezzo e un panino. Sì. Capitato. Diciamo che noi ci rifacciamo con le ciabatte dei locali. Ecco. Per capitare, però, per voler far sentire a tutti la sua musica, lui partiva. Sì. E così. Chiaramente sono cose, casi limite, però. Però purtroppo è una realtà anche sì, triste, insomma, per molti aspetti. Poi tanto di cappello a chi ha anche la. Non è molto diverso, insomma, anche per noi. Beh, Dente, tra l'altro, è molto più, è il modo più conosciuto, diciamo, all'inizio. Sì, comunque noi. È molto all'inizio difficile. Faceva così, dopo chiaramente ha avuto successo, il discorso si è allargato, però all'inizio per farsi sentire sicuro, e ascoltare, lui partiva, chiaramente chitarra e voce era solo, partiva con il treno, con la macchina, adesso non ricordo, e andava in giro anche lontano, andava fino in Sicilia, in Sardegna, nelle Puglie, cioè molto giù rispetto da dove partiva lui, da Milano, quindi insomma. Effettivamente sì. Perché voleva far sentire la sua voce, voleva far sentire alla gente il suo disco, cioè, la promozione era quella, la faceva lui la promozione. Beh, in effetti sarebbe diciamo anche la cosa giusta e bella da fare. Io purtroppo devo anche laurearmi, per dire, sono un eterno laureando. Quello è importante. E qui loro lavorano bene o male, cioè ci sono magari anche in quattro più difficoltà che certo, non cioè, in uno sì, coordinare esatto, una in sola persona. In quattro è più difficile, esatto, però in insomma anche noi andiamo via per 100 euro. Purtroppo vorrei che fosse diverso. Ma sì, d'accordo, le spese ci sono, però la voglia di suonare qualche volta oltrepassa. Beh, sicuramente se l'avremmo già poi, messo ovviamente insomma ci sono delle situazioni in cui anche se il cachet non è poi così dei più allettanti si va lo stesso perché magari prestigio, cioè, altre magari cose. Ma succede, non succede solo ecco. Succede a tutti, chiaramente, quindi non è una novità. Speriamo di parlarne un giorno e dire ti ricordi quella volta che uscivamo per esattamente. Ok, cosa suoniamo adesso? Ma mi sembra che sia arrivato il momento di Alla Fine. Che ho scelto io, un pezzo molto bello. Io l'ho scelto come pezzo per un mese far sentire dal vostro album. A me è piaciuto particolarmente. E adesso speriamo che. E poi lo cantavi in falsetto, lo canti anche in falsetto? Sì, sì, lo canto come. Ce la faccio. Io la premessa l'ho fatta prima e ma non vorrei. Finora anche. Sei comportato benissimo, nonostante il raffreddore. Quindi. Vediamolo. Ok. 1, 2, 3, 4. Un attimo solo che non ho i riferimenti su questa chitarra, vi prego ricominciamo. 1, 2, 3, 4. Forse devi aspetta trovarne attimo. Ancora qualcun altro. Eccoci qua, ci sono. 3, 4. Tremoncia, mentre i tuoi angeli qui fremono, leccando un po' fra le mie mani e le tue, nasconditi, racconterò perché sei qui. È semplice, ma sudo e piango un po', non so se reggerò o no. Chiedimi qual è, anche se non mi credi. Chiedimi perché, anche se alla fine dolce la notte, ma inganna il mio respiro. Dolce la notte, ma inganna il mio respiro. lucida, con i pensieri ti muovi perché ti calmano, splendida, mentre la morte è già qui, mordila. So che penserai a me, non smettere finché passerà il tuo film, non piangere, oh no. Chiedimi qual è, anche se non mi credi, chiedimi perché, anche se alla fine dolce la notte, ma inganna il mio respiro. Dolce la notte, ma inganna il mio respiro. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, dicevo una cosa, che la tua percussione con i jeans, quindi una percussione vera, umana, così epilettica, si sentiva in modo veramente notevolissimo nelle cuffie, proprio entravi nella mia cuffia in modo molto notevole, molto prepotente. Allora, no, questo nel senso positivo, nel senso positivo. È stata, mi fa molto piacere, è stata una bella esperienza, secondo me, notevole. Ok, abbiamo sentito questo grande pezzo, alla fine è un pezzo, non so, non è un singolo, però io potevo anche avere l'idea di predisporlo come singolo, non era Andrei, chiaramente Andrei aveva un altro impatto, però questo poteva anche avere un impatto più romantico, più avvolgente. C'è stata una diatriba tra Alessio, che forse mai potrebbe anche arrivare da un momento all'altro. Sì, ma forse ci starà sentendo, se ha un computer acceso adesso. Esattamente, sì. Diciamo che lui voleva assolutamente questo brano come singolo. Sì. In realtà anche noi, insomma, la cosa andava bene, se non che abbiamo pensato, o almeno io, che magari fosse rispecchiasse meno comunque quello che è il disco. E quindi magari proporlo come secondo o terzo sì, singolo. Hai detto una cosa giusta, Matteo, sì, leggermente scorporato, leggermente rispetto agli altri pezzi del disco. Però non è proprio scorporato al 100%, no, perché la melodia, bene o male, nonostante un produttore che ha cercato di colorare in modo più scuro qualche volta i colori, dare un po' un verso un po' decadente, la melodia vostra, bene o male, tenta, viene fuori. È una nostra marca di fabbrica, diciamo che già i pezzi di per sé erano nati così. Lui semplicemente è riuscito ad enfatizzare quello che era lo spirito che nascondevano, diciamo. E quindi l'ha tirato fuori al meglio. Visto che è un produttore straniero, non può avere la possibilità di darvi un aggancio, una via per poter portare all'estero il vostro disco? Beh, sicuramente quello che, anzi, senza assicurarci nulla, tra l'altro, una cosa che mi piace, perché abbiamo trovato un po' nel corso degli anni persone che ci assicuravano, e poi verrai, cose di questo genere. E poi alla fine è andato tutto facile. Scomparivano con qualche soldo, poca roba, tra l'altro. Beh, diciamo che qui c'è un po' più di affidabilità. Esattamente. Quindi è una persona decisamente seria. Diciamo che lui, tramite il documentario e anche dei suoi contatti, insomma, cercherà di fare anche lui una promozione, anche perché si è legato particolarmente a questo progetto, e per fortuna, cioè, è una cosa che ci lusinga moltissimo, direi. E poi anche, sì, senza dimenticare che anche il fatto che ci siamo uniti molto anche in questi mesi, insomma, perché meno male, quanto insomma, è durata la registrazione praticamente? Va di per sé la registrazione tra le preproduzioni Beh, una settimana di preproduzioni, 8 ore al giorno di suonare dentro in uno studio, 8 ore al giorno studio. E abbiamo vissuto anche molto a stretto contatto. Beh, certo. Poi, e poi 2 settimane per la registrazione di tutto il disco, tra l'altro, che abbiamo fatto anche a cavallo dell'ultimo dell'anno, l'ultimo anno. Per bene. Cui abbiamo passato anche l'ultimo dell'anno assieme. Io ho avuto l'onore di averlo come ospite in casa mia a dormire. Perfetto. Da tutte le 2 settimane, perfetto, infatti non ho più lavato le lenzuola, voglio dire, sono quella lì ha tenuto come icona lenzuola. Ok, adesso abbiamo tempo di far sentire un altro pezzo da disco e poi saluteremo con un pezzo live. Cosa avete far sentire da disco? Questo è un pezzo cui tengo moltissimo, anche è un pezzo sempre molto particolare per quanto mi riguarda, è il pezzo che chiude il disco, anche se in realtà ci sarebbe una ghost track alla fine. Sì, esattamente. E, ed si è Requiem. Requiem. Qui volevo sottolineare anche la presenza dell'organo di Fontaniva. Sì, che è un organo molto particolare. Esatto, che dà una potenza della incredibile. Della chiesa di Fontaniva, questo sì, organo. Della chiesa di Fontaniva, quindi sì. Un organo di che ha una certa età, praticamente. Che ha una certa storia. Che anno certa è, storia. Mi sembra del 1000, ma... Dell'800. Forse dell'800. Un organo De Lorenzi, so questo. De Lorenzi. Quindi no. Dell'800, probabilmente. Dell'800. Sì, che dà quest'area spettrale anche in un contesto che poi sentiremo di morte. Comunque alla fine, no? Sì, e quindi ci stava proprio. E Alessio lo suona l'organo? Sì, sì, sì, sempre Alessio. Che okay. Ha avuto qualche difficoltà perché diceva che non è proprio così semplice, però è stato bello. Però è stato bello. Lo sentiamo, Requiem. Fino ad oggi. respirare. I miei passi che mi portano ai bordi in fiore di un umido mattino che viene a prendermi. Mi sembra di affogare il mio male. Accompagna la salma del feroce killer, vittima della sua stessa dissoluzione e malvagità. I pochi presenti salutano beffardi il malavitoso sotto una pioggia di sputi. Forse oggi non è morto nessuno. Forse oggi siamo morti tutti. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, abbiamo finito questa cavalcata. Dall'abbrio della pallavolo siamo passati, siamo contentissimi. La dimostrazione live è stata molto positiva, secondo me, nonostante che tu sei partito con un po' di raffreddore, ma l'hai superato ampiamente. Probabilmente ci pagherò le conseguenze. Speriamo di no. E una cosa, Matteo, adesso le notizie di servizio, dove possiamo acquistare il disco, tutte queste cose. Dunque, il disco si può acquistare, chiama La Marsigliese. La Marsigliese, già da ora su iTunes, digitando Riafiora, La Marsigliese, Riafiora, insomma, comunque viene fuori. Tra un paio di settimane, tramite il servizio di Amazon, sì. Amazon, sarà possibile ordinarne anche la copia fisica. Quindi averlo in mano. Sì. Esattamente. Poi noi ai concerti, questo si parla nei prossime date. Da giugno. Se no, troveremo anche un'edizione un po' particolare che abbiamo voluto fare, insomma, da vendere al pubblico, ai fan che latitano. Com'è l'edizione particolare? Potrei sapere. E qui ci vorrebbe sempre Alessio, che ha curato nel minimo dettaglio questa cosa. L'idea, qualche notizia Alessio ve l'ha data, insomma. Sì, no, sappiamo, dillo. Beh, tu in maniera breve, perché... Esattamente, cos'è anche la Marsigliese, sì. Di copertina è un tarocco, in realtà, sì, di di questa nella copertina del Marsigliese, che ha degli elementi di ogni brano all'interno del tarocco. Ho capito. E per ogni brano ci sarà un tarocco definito appunto per che descrive il pezzo. Diciamo. Che è un po' esoterico già di copertina, no? C'è questo richiamo simbolico a varie cose che poi all'interno del disco è spiegato con un libretto. Sempre tutti i disegni di Patrizia Bertoli, tra l'altro. Che... Poi abbiamo citato un altro che non avete citato precedentemente. E Giuliano Cremasco e la fisarmonica che abbiamo sentito dobbiamo citarla, assolutamente. Ok, benissimo, abbiamo finito in bellezza. Io ringrazio Idea Fiora che ci hanno presentato la Marsigliese, il loro nuovo album. Ringraziamo Michele Tosò in regia che ha dato una mano fondamentale per la riuscita della trasmissione. E terminiamo con una vecchia cosa, vero Andrea? Una cosa molto vecchia, a dire il vero, quantomeno perché non la proviamo da un po' di anni. Sì. E Antonio P. Proviamo a fare Antonio P. Benissimo, Antonio P. Buonanotte a tutti e grazie. Due ali di cartone mi innalzano nel cielo mentre miro un sole verde di plastica e laggiù riconosco il vostro odore, da quassù assordato dal silenzio. Rimbalza contro il cielo il mio stupore mentre miro un sole da uccello di cartone e laggiù riconosco il vostro odore, da quassù assordato dal silenzio. Mano mi spazza via, tali sono le distanze che non si porti via, pasticche rosa di polvere, lascio il pensiero per... tornare in isolamento e... La stanza bianco panna imbottita di cuscini delimita il mio mondo nel vecchio istituto. Mentre miro un sole verde di plastica